Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Dunque, una giornata di discussioni particolarmente animate, anzi si potrebbe dire decisamente in ordine sparso. L'Eurogruppo, dunque l'organizzazione dei 19 che ha il compito fondamentale la tutela dell'euro, è riunito, ma più tardi sarà la volta dei capi di Stato e di Governo, insomma la politica dalla quale si attende una posizione, un'idea per uscire da questo impasse greco. Che cosa sta accadendo nel frattempo? Stamattina Juncker è intervenuto al Parlamento europeo, la linea sostanzialmente è rimasta la stessa, cioè non vogliamo perdere la Grecia, l'Europa non può perdere uno dei suoi 28 membri e né l'euro uno dei suoi 19, ma nello stesso tempo si aspetta da Atene una mossa, un'iniziativa e una proposta che permetta dunque di affrontare i termini economici del problema, anche perché c'è già chi, come dire, si lamenta in maniera esplicita, e non sono tanto i grandi paesi, la Germania, la Francia, l'Italia, che direi abbastanza in coro, parlano tutti di un tentativo di salvataggio, ma prendiamo per esempio quanto detto da Janis Reyers è il ministro delle finanze della Lettonia, e dice sostanzialmente se in un sistema c'è un elemento che non funziona, rimuovere quell'elemento può essere positivo. Ecco, questo ve lo cito perché rappresenta abbastanza bene quanto sta emergendo, magari qui dal sud dell'Europa non lo vediamo molto, in diversi paesi piccoli e medi dell'Unione Europea. Tenore analogo dalla Slovacchia, preoccupazione per i conti che vanno rispettati e che la Grecia non ha rispettato dalla Finlandia, insomma il clima non è affatto positivo. Naturalmente il tutto dovrà essere plasmato proprio da quell'intervento politico che in queste giornate, anzi in queste settimane, sembra essere così gravemente mancato. Stamattina alle 8.30 era già in aula plenaria al Parlamento europeo Jean-Claude Juncker, quindi il capo della Commissione. Sentiamo nel servizio i contenuti del suo intervento. A dispetto dei toni miti, della cravatta gialla, del vestito sobrio, bastano poche parole a Jean-Claude Juncker alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo per far capire che di Atene non ha gradito né i toni né i contenuti. Sono contrario all'uscita della Grecia, cercherò di evitarlo fino alla fine, dice. In Europa non esistono risposte facili, la Commissione europea farà in modo che riprendano i negoziati. Ma i toni sono fermi, orgogliosi, quando senza citarlo risponde all'ormai ex ministro Varoufakis. No, lui non si fa dare del terrorista, dice Juncker. Lasciare il negoziato è stato un grave errore. Rispettiamo il referendum, aggiunge, ma dice di non aver capito che cosa è stato chiesto ai cittadini greci, visto che il popolo greco ha votato no su un testo che non è più sul tavolo. E aggiunge, il governo greco ci deve dire ora come si vuole districare da questa situazione, sottolineando che servono proposte concrete e che la situazione non si risolve in una notte. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Insomma, tensione anche nell'emiciclo, c'è stato uno scambio piuttosto animato di accuse tra Commissione e Parlamento, ma questo è lo stato dell'arte in questa giornata che attende dunque una risposta politica. Lo sapete, la BCE ha in qualche modo congelato la propria posizione, giustamente, visto che non ha il compito politico che spetta invece alle istituzioni rappresentate da stati e dai capi di Stato e di Governo, e per tutto questo bisognerà attendere ancora. Speriamo che dal pomeriggio di oggi emergano dunque delle decisioni utili a uscire da questo vero e proprio blocco, da questo stallo che pesa pesantemente sull'Europa intera. Allora ci aggiorniamo alla prossima edizione. Un saluto. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.